Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Era una mattina molto fredda e umidissima. Avevo visto l'umidità appiccicata all'esterno della mia finestrella, come se qualche folletto avesse pianto lassù tutta la notte, servendosi della finestra come di un fazzoletto. La nebbia infittì ancora di più quando mi affacciai sulla palude, tanto che invece d'essere io a correre verso le cose, tutte le cose sembravano corrermi incontro, un'impressione assai sgradevole per un animo colpevole. Staccionate e canali e sponde mi apparivano di colpo nella nebbia, quasi gridassero distintamente: «Un ragazzo con un pasticcio altrui! Fermatelo!» Il bestiame mi si presentava dinanzi in modo altrettanto repentino, fissandomi ed emettendo vapore dalle narici. «Ciao, ladruncolo!» Frattanto io mi andavo avvicinando al fiume, ma per quanto camminassi svelto non riuscivo a riscaldarmi i piedi, ai quali quel freddo umido sembrava inchiodato e ribadito, come la catena alla gamba dell'uomo incontro al quale correvo. Conoscevo abbastanza bene la strada sino alla batteria, per esservi stato una domenica con Joe, e questi, seduto sopra un vecchio cannone, mi aveva detto che quando io fossi diventato suo apprendista, con un contratto regolare, quali scappate non avremmo mai fatto lì! Pure nella nebbia che confondeva ogni cosa, mi ritrovai alla fine troppo a destra e per conseguenza dovetti tornare indietro lungo il corso del fiume, sulla sponda di pietre affioranti dal fango e tra i paletti che segnavano il limite delle maree. Facendomi rapidamente strada fra di esse, avevo appena attraversato un fosso che sapevo molto vicino alla batteria e mi ero arrampicato sopra il monticello al di là del fosso, quando scorsi l'uomo seduto dinanzi a me. Mi voltava la schiena, teneva le braccia conserte e il capo gli ciondolava in avanti, appesantito dal sonno. Pensai che sarebbe stato più contento se mi fossi presentato con la colazione, così di sorpresa, e perciò mi avanzai senza far rumore e lo toccai sulla spalla. All'istante balzò in piedi ed era non già lo stesso uomo, ma un altro. Pure anche questo era vestito di quei ruvidi panni grigi ed aveva una catena alla gamba, e zoppicava, ed era rauco ed infreddolito, ed era insomma identico all'altro uomo, solo che non aveva lo stesso viso, e portava in testa un cappello piatto di feltro, a tesa larga e a cocuzzolo basso. Tutto ciò lo vidi in un attimo, perché ebbi solo un attimo per vederlo. Mi lanciò un'imprecazione, mi sparò un pugno, una botta circolare, debole, che non mi raggiunse e quasi gettò lui per terra perché lo fece incespicare. Poi fuggì nella nebbia, inciampando due volte nella corsa, e lo persi di vista. «È il giovanotto!» pensai con un tuffo al cuore. Oso dire che anche il fegato mi avrebbe dato una fitta se avessi saputo dov'era. Arrivai poco dopo alla batteria e lì ad aspettarmi vi era l'uomo che cercavo, il quale continuava ad abbracciarsi e ad andare avanti e indietro zoppicando come se non avesse fatto altro tutta la notte. Doveva avere certamente un freddo tremendo e quasi mi aspettavo di vedermelo cadere dinanzi agli occhi morto e intirizzito. E poi i suoi occhi avevano uno sguardo così famelico che quando gli consegnai la lima ed egli la depose sull'erba mi venne in mente che forse avrebbe cercato di mangiarla se non avesse visto il mio pacchetto. Questa volta egli non mi mise con la testa all'insù per prendere quello che avevo, ma mi lasciò con la testa all'insù, mentre aprivo il pacco e vuotavo le tasche. «Che c'è nella bottiglia, ragazzo?» chiese. «Acquavite». Stava già ingollando la carne tritata nel modo più strano, come uno che più che mangiarla la stesse stivando di gran fretta, ma si interruppe per mandare giù un sorso di liquore, scosso da brividi così violenti che a stento gli riusciva di trattenere il collo della bottiglia fra i denti senza strapparlo via con un morso. «Mi pare che vi siate preso la malaria», dissi. «Condivido la tua opinione, ragazzo». «È brutto qui intorno», gli spiegai. «Siete rimasto sdraiato nella palude e qui c'è tanta malaria. Si prendono anche le febbri reumatiche». «Mangerò la colazione prima di lasciarci la pelle», replicò, «fino all'ultimo boccone, anche se dovessi venire appeso a quella forca subito dopo. Ma riuscirò a vincere anche i brividi, te lo garantisco». Stava ingoiando avidamente carne tritata, carne con l'osso, pane, formaggio, pasticcio di maiale, tutto quanto insieme, fissando sospettoso nel frattempo la nebbia che ci avvolgeva e fermandosi spesso, fermando perfino le mascelle, per stare in ascolto. Ad un tratto un rumore reale o immaginario, un tintinnio sul fiume o un ansimare di bestie nella palude lo fece trasalire ed improvvisamente disse: «Non sei uno spione. Non hai portato nessuno con te». «No, no». «Non hai dato a nessuno l'incarico di seguirti». «No». «Bene», disse, «ti credo. Saresti davvero un mastino arrabbiato se alla tua età ti prestassi a dare la caccia a un povero disgraziato vicino a una morte miserabile come il sottoscritto». Si sentì un ticchettio nella sua gola, come se vi fosse dentro un meccanismo simile a quello di un orologio che stesse per segnare le ore, ed egli si passò sugli occhi la ruvida manica stracciata. Mosso a compassione dal suo sconforto, rimasi a guardarlo mentre a poco si mangiava il pasticcio e mi azzardai a dirgli: «Sono contento che vi piaccia». «Hai parlato?» «Ho detto che sono contento che vi piaccia». «Grazie, ragazzo. Sì, mi piace». Molte volte ero stato a guardare un nostro grosso cane mentre mangiava la sua pappa ed ora notai una decisa somiglianza tra il modo di mangiare del cane e quello dell'uomo. Questi dava dei morsi forti e improvvisi, proprio come il cane. Inghiottiva, anzi divorava ogni boccone troppo in fretta e troppo presto, e mentre mangiava si guardava intorno con la coda dell'occhio, come se temesse l'arrivo di qualcuno che gli volesse portare via il pasticcio. Era troppo agitato, riflettei, per poterlo gustare a suo agio o per permettere che qualcun altro venisse a mangiare con lui senza avventarglisi contro con le mascelle spalancate. Ed in ognuno di questi particolari era proprio simile al cane. «Ho paura che all'altro non ne resterà niente», dissi timidamente dopo un silenzio durante il quale mi domandai se fosse educato fare un'osservazione del genere. «Là dove l'ho preso non c'è più nulla da portar via». Era la certezza di questo fatto che mi spingeva ad accennarvi. «Lasciarne all'altro? Chi è quest'altro?» domandò il mio amico smettendo di masticare la crosta del pasticcio. «Il giovanotto, quello di cui avete parlato, che era nascosto insieme a voi». Replicò con un'aspra risata. «Lui? Già, già, ma lui non ha bisogno di mangiare». «Secondo me aveva tutta l'aria di averne bisogno», dissi. L'uomo smise di mangiare e mi scrutò attentamente con aria stupita. «Aveva tutta l'aria. E quando?» «Un momento fa». «Dove?» «Laggiù», dissi io puntando il dito, «là dove l'ho trovato mezzo addormentato, e anzi, l'avevo preso per voi». Mi afferrò per il colletto e mi fissò così intensamente da farmi pensare che fosse rinata la sua prima idea di tagliarmi la gola. «Era vestito come voi, sapete, solo che aveva il cappello», spiegai tremante, e mi preoccupavo di presentare la cosa con delicatezza, «e aveva gli stessi vostri motivi per desiderare una lima. Non avete sentito il cannone ieri sera?» «Allora hanno veramente sparato», mormorò fra sé. «Strano che non ne siate sicuro», replicai, «perché l'abbiamo sentito da casa nostra, che è molto più lontana, e per di più eravamo chiusi dentro». «Ma vedi», disse, Quando un uomo si trova solo in una terra piatta come questa, con testa e stomaco vuoti, mezzo morto di freddo e di fame, non sente altro tutta la notte che cannoni che sparano e voci che chiamano. Ma quell'uomo, hai notato qualcosa in lui? Aveva una faccia tutta scorticata, disse rammentando ciò che quasi ignoravo di sapere. Non qui! Esclamò l'uomo schiaffeggiandosi spietatamente la guancia sinistra con il rovescio della mano. Sì, lì! Dov'è? Ficcò quel poco cibo che gli rimaneva nel davanti della sua giubba grigia. Mostrami da che parte è andato! Lo sbranerò come se fossi un mastino! Maledetto questo ferro sulla gamba ferita! Dacci la lima, ragazzo! Gli mostrai in quale direzione la nebbia si fosse richiusa alle spalle dell'altro uomo, ed egli si crotò un istante da quella parte. Poi si chinò rapido sull'erba fitta e bagnata, mettendosi freneticamente a limare la catena, senza darsi pensiero né di me né della sua stessa gamba, su cui appariva una ferita ormai vecchia e sanguinante, ma anzi maneggiandola rudemente, come se essa non avesse maggiore sensibilità della lima. Quanta paura provai ora di lui nel vederlo in un tale parossismo di furia, e quanta paura di rimanere più a lungo lontano da casa. Gli dissi che dovevo andarmene, né egli dette segno di avermi udito, e così pensai che la cosa migliore fosse di filarmela. Quando lo scorsi per l'ultima volta, aveva la testa china sul ginocchio e lavorava accanitamente attorno al suo ceppo, brontolando impazienti imprecazioni contro di esso e contro la gamba. L'ultima cosa che sentii, allorché mi fermai nella nebbia ad ascoltare, fu il rumore della lima ancora in funzione. L'apparizione di un manipolo di soldati, il rimbombo dei calci dei moschetti carichi sulla nostra soglia, fece drizzare in piedi confusamente tutta la tavolata, e mia sorella, rientrando dalla cucina a mani vuote, si fermò, di colpo, interrompendo il suo lamento stupito. «Buon Dio! Santo Dio! È sparito il pasticcio!» Il sergente ed io eravamo entrati nella cucina, quando ella si fermò attonita a guardare, e in quel momento critico io ritrovai parzialmente l'uso della ragione. Era il sergente che mi aveva parlato, ed ora egli andava squadrando tutti i presenti con quel paio di manette nella mano destra, teso verso di loro con gesto invitante, e la mano sinistra posata sulla mia spalla. «Scusatemi, signore e signori», disse il sergente, «ma come ho spiegato alla porta a questo svelto ragazzino, cosa che in realtà non aveva fatto, sto facendo una partita di caccia in nome di Sua Maestà, ed ho bisogno del fabbro». «E si può sapere che volete da lui?» ribatté mia sorella, subito irritata dal fatto che il marito fosse comunque ricercato. «Signora», replicò il sergente con galanteria, «se parlassi il mio nome, l'onore e il piacere di fare la conoscenza della sua simpatica moglie. Parlando in nome di Sua Maestà, rispondo che ho bisogno di un lavoretto». Il discorso del sergente fu giudicato abbastanza garbato, tanto che Pumblechook gridò, in modo da essere udito, «Ben detto!» «Vedete, fabbro», disse il sergente, che nel frattempo aveva individuato Joe, «ci è successo un guaio con queste. Mi sono accorto che la chiusura di una è rotta e che la giuntura non funziona bene. Poiché ne abbiamo bisogno per uso immediato, volete darci una guardatina?» Joe diede la guardatina e dichiarò che per il lavoro occorreva riaccendere il fuoco della fucina, e ci volevano 2 ore piuttosto che una. «Davvero? Allora vi ci metterete subito, fabbro», rispose lo spigliato sergente, «dato che è per il servizio di Sua Maestà. E se i miei uomini potranno dare una mano in qualche modo, si renderanno utili». E con questo chiamò i suoi uomini, che si radunarono nella cucina, uno dopo l'altro, e ammucchiarono le armi in un angolo. Poi rimasero lì, come sogliono fare i soldati, ora con le braccia mollemente congiunte dinanzi, ora appoggiando un ginocchio o una spalla, ora allentando un cinturone o una cartucciera, ora aprendo la porta per lanciare al di sopra dei loro alti solini uno sputo preciso nel cortile. Tutte queste cose io le vidi senza vederle, perché morivo di paura. Ma quando incominciai a capire che le vanette non erano per me, che finora i militari avevano avuto la meglio sul pasticcio, tanto da cacciarlo nello sfondo, ripresi un poco il controllo delle mie facoltà disperse. Vorreste dirmi l'ora? Disse il sergente rivolgendosi a Pumblechook, come ad un uomo la cui capacità di apprezzamento giustificava l'induzione che fosse in grado di conoscere l'ora. Sono le 2:30 appena scoccate. Mica male, rifletté il sergente. Anche se fossi costretto a fare halt qui per circa 2 ore, ce la farò lo stesso. Quanto siete lontani dalla palude qui? Non più di 1 miglio, direi. 1 miglio giusto, rispose mia sorella. Benone! Cominceremo a stringere il cerchio al cadere della notte, un po' prima della notte. Questi sono gli ordini. Basterà. Si tratta di forzati, sergente? Domandò Upsl in tono indifferente. Già, replicò il sergente, 2. Si sa con sufficiente certezza che si trovano ancora nella palude e non cercheranno di filarsela prima dell'oscurità. Nessuno di voi qui presenti ha visto selvaggina di quel genere? Ognuno, me escluso, lo negò con sicurezza. Nessuno pensò a me. Bene, disse il sergente. Si troveranno presi in trappola più presto di quanto non credano, ve lo dico io. Su, Fabbro, se siete pronto, lo è anche Sua Maestà il Re. John si era tolta la giacca, panciotto e cravatta. E indossato il grembiolone di cuoio, era passato nella fucina. Uno dei soldati ne aprì le imposte di legno. Un altro accese il fuoco, un terzo si mise al mantice e il resto rimase attorno alla fiamma, che presto divampò, ruggendo. Poi Joe incominciò il suo lavoro. Martellava e il metallo tintinnava, mentre noi tutti stavamo a guardare. L'interesse dell'imminente inseguimento non solo assorbiva l'attenzione generale, ma suscitò perfino la generosità di mia sorella, la quale attinse dalla botte un boccale di birra per i soldati e invitò il sergente ad accettare un bicchiere di acquavite. Finalmente, Joe terminò il suo lavoro. Cessò il tintinnio del metallo e il brutto giro del fuoco. Allora Joe, nel rimettersi la giacca, si fece ardito a proporre che alcuni di noi andassero con i soldati a vedere l'esito della caccia. Pumblechook e Hubble rifiutarono, con il pretesto di fumare una pipa e far compagnia alle signore, ma il signor Upsall disse che ci sarebbe andato, se ci fosse andato pure Joe. Questi dichiarò di acconsentire che avrebbe portato anche me, se sua moglie era d'accordo. Sono certo che non avremmo mai ottenuto il permesso di andare senza l'avida curiosità di mia sorella di sapere tutti i particolari della battuta. Dato il permesso, ella si limitò ad ammonire: «Se mi riporti a casa il ragazzo con la testa a pezzi per una fucilata, non aspettarti che io gliela rimetta insieme!» Il sergente si accomiatò educatamente dalle signore e poi si separò da Pumblechook come da un camerata. I suoi uomini ripresero i moschetti e si rimisero in formazione. Oltrepassammo il palo indicatore e ci dirigemmo dritti verso il cimitero. Lì un cenno di mano del sergente ci tenne fermi per alcuni minuti, mentre 2 o 3 dei suoi uomini si sparpagliavano fra le tombe ed esaminavano anche il porticato, ritornando senza aver trovato nulla. Poi ci dirigemmo verso la distesa paludosa, passando per un cancello laterale del cimitero. Un nevischio tagliente, sospinto dal vento di levante, ci assalì sibilando, e Joe mi prese sulle sue spalle.